Consiglio. Qui Stellazzurra, siamo con Franco Busciati, la nostra guardia tiratrice. Franco, buongiorno, anzi, buonasera, vista l'ora. Franco, Ciao a tutti. una breve intervista. Sei il primo ad avere l'onore di essere intervistato per il nostro nuovo podcast che pubblicheremo su Sono onorato. internet. Senti, iniziamo subito a entrare in tema di partite. Domenica abbiamo una sfida importante con Montevarchi. E sarà la prima volta che giocheremo nel nostro nuovo impianto, l'Altero Felici Arena. Quali sensazioni provi? Ma sicuramente sarà emozionante esordire sul nostro nuovo campo, ma soprattutto dobbiamo stare attenti al risultato della gara perché per noi è fondamentale una vittoria per poter continuare a rimanere al terzo posto. Quanti anni sono ormai che sei in pianta stabile nella rosa della Serie B? È il terzo, credo, E quanti anni sono che fai parte della Stella Azzurra? sì. Ben 5 adesso. Com'è nata questo tuo rapporto con la Stella Azzurra? Ma insomma, quasi per caso, in un provino, tra l'altro all'inizio scelsero Pier Giorgio del Signore, poi tutte e due, poi l'ho raggiunto anch'io, insomma, con Quindi è un quasi casuale. provino. Sì, stavo praticamente andando all'altra sponda, quello col Castellano. Beh, meglio così, no? Ma sì, sicuramente. Senti, e qual è tra le vittorie o i trionfi o magari anche le delusioni della Stella Azzurra il momento che ti ha dato un'emozione più grande, in negativo o in positivo? Sicuramente quello che ricordo con più piacere è la vittoria in gara 3 a Iseo, dove tutti ci davano per spacciati, invece riusciamo a ribaltare i favori del pronostico, insomma. Però l'unica, il rammarico sono le finali nazionali di Rimini, una squadra fortissima, purtroppo abbiamo perso con Rimini. E poi l'unico ricordo buono, insomma, è la vittoria di Piombino. Una squadra formidabile, giocavamo con Andrea Bargnani, con Iannilli, gente che non è più qua. E come prevedi il tuo futuro? Stella Azzurra, fuori dalla Stella Azzurra? Che cosa prevedi per la Stella Azzurra? Ma sicuramente mi auguro di calcare i parterre più prestigiosi, insomma vorrei con la Stella Azzurra andare in alto, quest'anno abbiamo una buona opportunità, speriamo di sfruttarla fino in fondo. Senti, ultimamente diciamo, le cose sono andate bene sul campo, a parte la sconfitta di domenica scorsa, di sabato scorso, e c'è stato qualche problema invece per quanto riguarda la situazione, diciamo, la injured list. Tu sei uno dei pochi rimasti sani, ti senti caricato di responsabilità da questa situazione? Ma sicuramente, cioè adesso dobbiamo, tutti quelli che siamo adesso dobbiamo dare il 110%, dobbiamo cercare di nascondere nei nostri limiti che sono il fatto che il nostro capitano, il nostro pivot titolare sono fuori, dobbiamo cercare di lavorare anche per loro, di cercare di non pesare la loro assenza. Se dovessi trovarti un difetto come giocatore di pallacanestro, qual è quello che ritieni sia più evidente e quale il difetto che invece credi di poter migliorare? Ma siccome come in tanti ho mille difetti, insomma, credo di essere abbastanza vulnerabile in campo, cercare di stare con la testa il più possibile, più minuti possibili, spesso vado un po' oltre. E la difesa che Germano predica tanto? Ma la difesa quella è una storia a sé, ogni partita è una storia a sé, alcune partite difendi bene, alcune fai schifo, non è come i primi anni che ero un disastro, insomma. Invece ti volevo chiedere una cosa molto importante che non riguarda l'aspetto strettamente tecnico della Stella Azzurra. Ci sono molti ragazzi che ci seguono, molti ragazzi che magari hanno la possibilità di venire a giocare alla Stella Azzurra. Tu hai vissuto rispetto agli altri un'esperienza un po' particolare, che altri ragazzi stanno vivendo come te, quella della foresteria. Ma effettivamente la foresteria è un ambiente diverso, non è come vivere in casa, ha altri pregi, altri difetti, insomma sicuramente rende i ragazzi uomini già a 16 anni, a 15. Io se posso la consiglierei a tutti i ragazzi, insomma, rendere uomini migliori soprattutto in vita al di là del basket. Senti, è stato molto difficile, è vero che insomma tu sei proviene da Colleferro, quindi diciamo sei sempre stato comunque vicino a casa, con possibilità di vedere i tuoi genitori comunque diciamo con regolarità, ma è stato comunque difficile il distacco dall'ambiente familiare? Ma poi io ho una storia abbastanza diversa, insomma, vengo da Colleferro per dire, perché comunque sono nato a Tirana, soprattutto adesso ho vissuto a Tirana per tanto tempo, insomma, e sì, è difficile, è indubbiamente difficile, però io ho sempre visto il lato migliore di questo. Con noi vivevano ragazzi che vedevano la loro famiglia una volta, due volte all'anno, insomma, però si sono sempre trovati bene, l'importante è avere armonia in foresteria, insomma, poi tutto il resto passa in secondo piano, perché comunque la Stella Azzurra è fatta di tante persone, di tanti uomini che ti stanno dietro, ti seguono a scuola, insomma, nella vita sociale, quindi non è un dramma, insomma, anche per i ragazzi di 15-14 anni. Ora tu sei il nostro atleta più anziano in foresteria. Cosa ti senti di consigliare ai tuoi compagni di foresteria che a volte sono magari un po', come posso dire, bizzarri o alquanto irrequieti? Ma quello fa parte anche dell'età, comunque c'hanno 16 anni e tutti quello che facevano loro l'hanno fatto tutti, ma sicuramente di stare sempre tranquilli, rilassati, avere l'obiettivo in testa, non scordarlo mai. Un'ultima domanda prima di lasciarti ai tuoi allenamenti. Qual è il pronostico per la partita di domenica? Ma sono superstizioso, non voglio fare pronostici. Va bene, Franco, ti ringraziamo e in bocca al lupo. Grazie a voi.